qualcuno su canale 10? C'è qui canale 10? C'è qualcuno all'ascolto? C'è qualcuno su 10? Avanti? Avanti su 10, chi c'è? Avanti, chi è su 10? Avanti su 10, chi è? Attento Giulio. Oh, ciao Franco, buonasera. Eccoti qua, ti ho sentito chiamare. Sì, perché ho visto due segnali, ma non è voluto entrare nessuno dei due. Ah, quindi c'era qualcun altro in ascolto? Probabilmente sì, ma evidentemente non ha voglia di parlare. Due segnali, uno diverso dall'altro. Vabbè, tutto a posto? Sei un po' annoiato, stai già sbadigliando come? Stavo facendo qualcosa, in questo periodo sto facendo delle cose. Ieri ad esempio mi sono fatto una lunghissima passeggiata, poi è entrato al buio a casa, quando ormai non c'era quasi più nessuno, al baracchino. Infatti ho acceso, saranno state le 8, 10, più o meno quello. Allora lì c'era Roberto, c'era, e questo Nicola, no, non Nicola, come si chiama? Vabbè, Carlo, non Nicola, Carlo. Sì, Carlo è entrato l'altro giorno, non è nuovo, mi sa che modulasse da, se non ricordo male, da Bonorva, e adesso è qui a Sassari, ha preso questo apparato non omologato, non ricordo che marca è, ha piattato l'antenna e sta parlando da Sassari. Sì, certo, ci fa piacere che la gente entri in frequenza. L'antenna qua non credo, prima era in un'altra posizione, ma prima ci arrivavo, magari in banda laterale, ma ci arrivavo. Non lo so, io da qua, sia forse né da qua né da dove ero prima in campagna, diciamola, non era una zona così alta per collegare Bonorva, però ha detto che qualcuno l'ha stato e lui lo sentiva, non so chi. Però qualcuno lo sentiva. Adesso stava uscendo però in polarizzazione orizzontale, c'è un dipolo, un'antenna dipolo, diciamo, con un elemento. Ok, ho capito. Sì, infatti io mi ricordo che la Bonova qualcuno sentivo, ma sto parlando di parecchi anni fa, non è certamente adesso. Ormai non penso che non ci sia più nessuno da quelle parti, non lo so. Comunque dai, un po' di nuova lì fa sempre piacere, così è giù. Adesso tutto bene? Sì, è tutto bene. Stiamo andando avanti. D'altronde cosa ci vuoi fare? Non è che puoi cambiare la situazione è quella che è. La sopportiamo finché è possibile. Quando non sarà più possibile, pazienza, cosa ci vuoi fare? Ah sì, quello sì. Prendiamo la vita per quello che ci offre. Certo che sì, d'altronde. Non è che possiamo cambiare. Sì, vabbè, l'estate ormai è passata, perché le vacanze ce le abbiamo fatte, per cui no. Adesso incomincia di nuovo la luglia, ma magari può darsi che qualcuno entra al baracchino. Possiamo scambiare due chiacchiere, così almeno in qualche maniera un piccolo svago ce l'avremo. Qualcuno mi sta dicendo se ci vai in palestra, io non è che sia contrario, soltanto che a me non mi piace rinchiudermi in questi ambienti chiusi con tanta gente, odore di sudore, preferisco prendermi la canna da pesca con qualche amico e andarmene a pescare. Potrebbe essere anche una buona idea quella, per andare a pescare se uno piace, certo. No, in palestra io non ci vado di sicuro. Se voglio fare attività non agonistica, ma attività sportiva, la posso fare da solo. Ci vuole poco, ti fai delle belle camminate e anche quella, e quella vale forse più della palestra, anzi sicuramente di più della palestra, perché il discorso camminare è più efficiente secondo me di qualsiasi tipo di esercizio che uno possa fare in palestra. Sai cos'è? Che se uno non paga non è assiduo nell'allenarsi, che molta gente le passa la voglia, invece quando c'è un appuntamento fisso che paga ogni mese, a malagana si cambia e va. Sì, beh certo, quello già è vero, però diciamo che ci vuole un po' di buona volontà, se uno ce l'ha la buona volontà la può fare anche da solo. Io ne conosco diverse di persone che tutti tantissimi giorni si fanno una passeggiata dal Latte Dolce sino al parco lì di Bugibugi e ritorno. Grosso modo, secondo quello che dice lui, all'incirca sono 4 km a andare e 4 km a tornare. Non è poco, è una bella camminata, insomma, ecco. Per cui se uno volesse, se ha un po' di volontà, la può fare. No, c'è molta gente che qua parte da via Pascoli, si fa tutta, come si chiama, via Pirandello, poi la via che scende verso la Budibudi, è una bella passeggiata. Sì, come dici tu, ci vuole assiduità, ci vuole testa, essere convinti di quello che si vuol fare. E mio figlio è così, mio figlio si allena ogni 2-3 giorni, a volte scende anche giù lì al parco a allenarsi verso la Budibudi, lì, verso la Terocce, che lì sono un po' di attrezzi da utilizzare. All'aperto, quindi sicuramente solo fino all'autunno, poi l'inverno si allena in casa, anche lui c'ha gli attrezzi, qua c'ha la palestra, insomma ci si arrangia. Dai. Beh sì, se uno ha un po' di volontà, magari i primi giorni sarà un po' più faticoso, però una volta che uno è entrato nell'ordine delle idee di fare quella passeggiata, la può fare tranquillamente, senza nessun problema. Poi non è che devi correre, basta camminare, magari con un passo un pochino lento, non dico acceleratissimo, ma comunque, tanto per muovere tutta la muscolatura. La palestra è bella, perché è bella, non ci sono dubbi, io di palestra l'ho frequentato per tantissimi anni, ma quando ero ragazzo, chiaramente, quando ero giovane. Adesso chiaramente non ci andrei proprio in palestra io, nella maniera più assoluta. Per una serie di motivi, prima di tutto perché non ho l'età per andare in palestra, che io mi ritengo, con la mia età mi ritengo quasi ridicolo andare in palestra. Casomai mi farò delle belle passeggiate per conto mio, magari se trovo qualche amico che ha volontà lo stesso, ma poi lo possiamo fare insieme e il resto. Ma andare alla mia età in palestra è quasi... No, perché ci sono dei giovani, capito? Ci sono dei giovani che magari lì ti vedono che stai soffrendo, perché avendo una certa età chiaramente non puoi stare dietro a quello che possono fare loro, per cui è meglio da soli, dai. Ma non credo che sia così, c'è gente anche grande, naturalmente ognuno ha le sue tabelle, certo non puoi fare quello che fa un ragazzo, però insomma, nei limiti del possibile uno si fa la sua tabella, ripeto, sicuramente è diversa da un ragazzo, però c'è gente anche grande, non ti preoccupare Giulio. Sì, sicuramente ci sarà gente anche di una certa età, non so se ci sono persone di 80 anni come quasi la mia età, per cui io la verità no, preferisco farla da solo una bella camminata e magari se entro nell'ordine delle idee lo posso fare anche tutti i giorni. Mi basterebbe anche camminare qua, nella borgata dove abito io, perché è abbastanza grande. Fai un paio di giri e hai completato un certo numero di chilometri, perché sembra così, però se cammini per tutti i punti è anche molto grande. Ecco, è registrato, sì, se ti fai tutto il viale che va, diciamo, dalla chiesa fino a, diciamo, alla rotatoria che c'è in fondo, dopo Salvucci, è una bella passeggiata comunque. Avanti Breck, buonasera. Sì, buonasera, ciao Franco, ciao Giulio, non ho sentito nessun altro, eventualmente ditemi voi, vai Giulio per primo e poi Franco. Ok, ciao Robert. Sì, stavamo parlando di fare certe camminate così magari per non stare fermi così, per non fare vita troppo sedentaria. Ma io l'anno scorso ho fatto, da dove abito io, tiene presente che io abito all'altezza del grosso modo semaforo, diciamo, dai, della 131. Sono sceso da lì in giù sino a dove c'è il carcere praticamente, in fondo, il carcere di Bancali, e sono uscito da San Giovanni, dal passaggio di mezzo da San Giovanni, e sono tornato indietro sulla 131. Insomma, è un bel percorso quello. Capo, intanto saluto Roberto, un abbraccio da parte mia, ben sentito. Caspita, qua è una bella passeggiata. Quanti chilometri sono? Giulio, avanti. Ah, io ritengo che quella passeggiata saranno stati almeno 10-12 chilometri tutto il giro. Perché quando pensi solo da San Giovanni ad arrivare a casa ci vanno già un paio di chilometri, 2-3 chilometri. C'è tutta la discesa lì, che non so come si chiama quella zona lì, però tu immaginati da dove sono io sino a giù al carcere dei bancari, praticamente sono andato in fondo, molto in fondo, che non so la zona come si chiama, poi ho girato a destra, ho girato e ne sono uscito dal passaggio a livello che c'è a San Giovanni. Da lì poi sono salito, ho fatto tutta la salita lì di San Giovanni sino a ritornare a casa, sempre facendo il giro in largo, però non facendo direttamente da San Giovanni direttamente a casa, no, facendo sempre il giro in largo dei punti. Avanti Roberto. È un bel giro, anche se devo dire io col calcio io non l'ho mai visto, ma qualche giorno che non ho niente a fare vado a vederlo, perché lo vedo sempre la notte salendo dal mare, molte volte o dal Trentino lo vedevo illuminato, ma non ci sono mai andato a vedere, è una cosa enorme, no? Ma io non è che ci sono andato a vedere il calcio, sono passato lì nella zona, non so se voi conoscete la pasticceria ad esempio di come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, insomma, diciamo che se voi sapete dove, ecco, forse tu lo sai, dov'è la zona di Walter, ecco, in quella zona lì, sono andato lì in fondo, sono arrivato praticamente al livello della testa di dove è la campagna Walter, con la sua stazione, eccetera, e poi ho tagliato in una strada che mi ha portato sino alla passaggio di mezzo di San Giovanni, quella zona non lo so come si chiama, e poi sono risalito tutto alla 131, tanto ci sono le barriere, puoi passare sempre dietro le barriere, non c'è bisogno di passare sulla strada, e poi ho fatto sempre il giro in largo per ritornare a casa, insomma un bel diretto, saranno 10-12 km tutto. Allora, al primo aspetto dove c'è la pasticceria sia Sebaldinca, tu forse quella pasticceria stavi dicendo? Sì, la pasticceria Baldinca, sono andato ancora più giù, ma molto più giù, e poi appunto ho trovato una strada che mi ha portato lì sino al passaggio di quello di San Giovanni, proprio Baldinca, sì. Sì, poi più avanti c'è la Crucca, poi più avanti ancora c'è il Truncureale, non so dove girate, per il primo passaggio a livello c'è passando la Baldinca, giri a destra della pasticceria Sias e poi risali da San Giovanni, c'è passaggio a livello che poi va anche ai campi del Cusco, però il carcere è tutt'altra parte, Giulio. La Crucca è, giri a sinistra e andi direttamente al carcere, se vai dritto vai al campo di tiro dove andavo io. Avete parlato in due e tu ci avevi anche la televisione accesa a tardi, comunque buonasera, vai giù. Ok, sì, beh, perché è così, non è che sono andato al carcere, io ho detto che sono arrivato al livello dell'altezza del carcere, più o meno lì, e poi dopo la pasticceria di Coso, appunto, sono andato lì in fondo, ma è lunghissimo, e poi sono arrivato praticamente alla capolinea del tram, che hai detto poc'anzi il nome, adesso non mi ricordo, la Crucca forse mi sembra che hai detto, credo che sia quella, proprio al capolinea del tram sono arrivato, ancora più avanti, poi sono uscito dalla strada del passaggio a livello, proprio di fianco al passaggio a livello, per ritornare poi indietro per tutta la 131, e così io non è che conosco molto quella zona, ma comunque quel tiro l'ho fatto, ieri, l'anno scorso. Una bella passeggiata. Ok, facciamo entrare Natalino un attimo e poi riprende Franco. Vai Natalino. Dai, sono in ascolto, sono al computer, sto facendo cosa. Vi ascolto, dai, ho acceso adesso e vi ho sentito, stavate parlando di questa storia qua. Vai fra. Facciamo Natalino, ben sentito anche a te. E soprattutto la televisione, sente, come dice Roberto. Sì, quella zona lì c'è un sacco di traverse, come si chiama? Pian del Sores, forse se non sbaglio, Maccia Gulletta. tutte quelle vie che vanno a finire più o meno alla zona del carcere, linea d'aria sempre, non si è lontano, Murruzzulu, tutte quelle vie sono in zona carcere. Sì, ciao Natalia intanto. Sì, ecco, ma Ciacuneta mi sembra che sia proprio dove c'è l'Alpe, dove c'è la campagna Valle. Mi sembra che sia, comunque sono più o meno quelli lì, dai. E, ripeto, e devi considerare poi che eravamo anche in piena estate, dunque molto caldo. Insomma, la passeggiata era lunga e la sudata era ancora abbastanza grande, per cui già mi sono divertito, dai. Un po' di stanchezza chiaramente poi alla fine, ma considera che l'anno scorso avevo 78 anni, per cui ho detto tutto, no? Avanti, vabbè. Allora sono una bella camminata, non è tanto il bello, finché stai andando, dice cammini, poi devi durare, e quello è il problema, rientro. Ok, dai, beh, complimenti comunque che hai fatto tutto quel percorso. Ti volevo dire, guarda, famosa, è venuto un tuo nipote in officina, lo sai, giù. Chi è il mio nipote? Il figlio di tuo fratello, Marco. Ah, Marco, sì, il fratello, il figlio del Nello, perché quando ho sfasciato la macchina. Non mi ricordo adesso neanche che macchina era, che cosa aveva fatto, perché è venuto prima dell'estate, cioè prima di andare in ferie, e poi c'era il cognome tuo, e ho fatto, ma tu parente? Certo che sono parente, fratello di mio padre, ah, a voglia. Quindi c'è anche il fratello di dell'altro, di quello che calda, il tuo fratello di nipote, certo. Non mi ricordo che mettere metto che fa, se mi aiuti tu forse riesco a fare memoria. Ma stai parlando forse del giornalista? Marco si chiama. Ah, ho capito. Sì, ho capito, e va bene, dai. Lo so, no, è un bravo ragazzo, no, perché mio nipote è un bravissimo ragazzo, veramente. Sì, è il figlio di mio fratello più piccolo, mio fratello che ha 60 anni, 61 anni, dai. È il figlio di Nello. Vabbè, anche lui giocava al calcio con gli anni passati. Comunque, con la fotografia che mi hai mandato, Robe, guarda che ne conosco diverse persone, vedi? Giocatori, quella famosa, che ce l'ho ancora quella fotografia che mi ha mandato. Va bene, dai, dopo ne parliamo. Avanti, Fra. No, ma tranquillo, a me piace anche ascoltare, Giulio. Avanti, Robert. No, c'è problema, ho una memoria che vi volevo dire da tanto tempo, adesso mi è venuto in mente perché stavamo parlando così, a me, a Giulio, siccome ero da un po' che non sentivo ieri di sfuggita, l'ho sentito, adesso mi è venuto in mente, e volevo dire sempre questa storia a Giulio, no, bravo ragazzo, non mi ricordo però che macchina c'aveva e che cosa gli ho fatto, quando capita già contro, tanto c'è la fattura e ti faccio sapere i particolari, Giulio, ti dico che cosa era, perché adesso non mi ricordo neanche dove abita, che zona abita, dimmi che male faccio memoria. Abita dove c'è Walter, lui dove abita Walter, abita lui. Praticamente la strada parallela a quella dove abita Walter, a quel livello lì. E tu pensa che il padre non gliela potuta riparare perché ha un problema al braccio, infatti è diverso tempo che ha avuto un paio di operazioni, prima la gamba, poi il braccio, adesso l'altro braccio anche. Se no mio fratello è del mestiere e so che è anche molto bravo. L'avrebbe fatto un padre, capito? Ok, allora, di nuovo Franco, Giulio, tutto bene a te la radio, però c'è sempre questa ventolina sotto abbastanza evidente. Non ci posso fare niente, con lui è l'alimentatore, quello è l'alimentatore, non posso eliminarla. L'altro alimentatore è piccolo come appareggio, per cui non lo posso utilizzare. Non mi basta per questa radio, capito? Ah ok, no, non c'è problema, naturalmente non è una critica, era soltanto un'osservazione, magari qualcuno non se ne rende conto e poi dice, ma come non avete detto niente? No, io l'ho sentito e te l'ho detto. Sempre tornando al discorso di ieri, che qualcuno quando gli fai qualche osservazione la prende come una critica, io la faccio sempre in modo benevolo, diciamo, nel senso costruttivo, mai per criticare, ricordatevi di questo. Cosa c'è da criticare? Domanda la pentola, diciamo che bene o male si sente un po' per tutti, per cui non è che è solo il mio alimentatore, no? Si sentono tanti altri alimentatori che hanno la pentola, e se non è l'alimentatore magari può essere difetto anche il microfono, può essere difetto il radio, ma comunque quelle cose lì ci passiamo sopra, che se ne frega. A me mi interessa che capisca quello che dice la gente, poi per il resto che voi possono essere vari, no, non mi interessa più di tanto. Tutto lì, assolutamente no, figurati se io penso che sia una critica, qua no, figurati, vabbè. e avanti Fra. No, sì, sì, l'ho sentito anch'io, non disturba tanto, però si sente il rumore sul fondo della ventola. La mia si sente la ventola? Vedete un po'? La tua è più leggera, proprio poco poco, però si sente, ma per essere pignoli naturalmente, poi guarda che riesci a capire quello che dici, non c'è problema, vai di nuovo Giulio. Sì, la sento, anche la tua sento, vabbè. Guarda, io adesso faccio quelli, adesso non la sente quasi niente la mia, perché adesso, ma no, no, adesso l'ho soffocata, non è possibile tenere così, perché sennò bruci l'alimentatore, per dire no, per cui, ma comunque, togliamo di nuovo questo tappo che ti ho messo sopra, e così va bene, facciamo quindi la batteria natalina, avanti Natalina. No, sto facendo roba al computer, dai, non posso. Vi sto ascoltando, però se mi interrompete non ne tolgo piedi. Ecco, le stai facendo il bello al computer, tu sempre inventando, stai. Vai Franco. Avanti, vabbè. E forse ti ho parlato sopra giù. Cosa hai detto, scusa? No, stavo rispondendo a Natalino, ho detto che quando decide siamo qua, se vuole siamo qua, quando vuole rientrare siamo qua, non c'è problema. Capito? E beh, quando lo aspetta, non lo faccio, guarda, li metto di nuovo un tappo sopra dove c'è tutto l'incastro, cioè lo schiaffo della ventola, guarda. Adesso si sente molto di meno, io non sento quasi niente, adesso solo che il microfono, questo è molto sensibile e magari lo senti anche per quello. Sì, un po' si è abbassata, ma fregatene giù, non succede niente, non ti preoccupare, ci manca, anzi, l'abbiamo voluta che si arrabbia, no? Molta gente qua in frequenza, molto pulita e chiara, ma soltanto questo appunto che ho voluto fare, e basta, di nuovo a te Franco. Sì, sì, no, ripeto, non dà fastidio, anche la mia, volendo la spengo, è che non è tanto vicino, però usando l'amplificazione un po' alta, sicuramente un po' me la trascino, avanti, vabbè. Però c'è il problema, vediamo un pochettino, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. C'è quel nuovo CB che c'è da un paio di volte, che l'ho sentito col Carlo, e ieri l'ho risentito per la seconda volta, non so se forse Giulio anche tu l'hai sentito ieri, mi pare, avanti. Ah, ieri l'ho sentito, però non so di chi, mi stava dicendo Franco che modulava prima da Bonorva, io negli anni passati Bonorva lo sentivo e mi sentiva anche a me in banda laterale. Non so se è qualcuno che ho già sentito, ma dimmi una cosa, è nominativo, ve l'ha detto, io una volta sentivo uno da Bonorva, aspetta come si chiamava, aspetta, aveva un nome, forse è Europa, è possibile che possa essere un nome, ve l'ha detto nominativo? Sì, l'ha detto, ma non lo ricordo, la verità. L'ha detto. Se dovesse rientrare glielo richiederemo. Vediamo se si ricorda Roberto. Sì, dovrebbe essere K2, Carlo K2. K2, io l'ho conosciuto anche a Sassen, anche fino a un paio d'anni fa, modulava con noi. K2, non lo so. Io mi ricordo che da Bologna sentivo, se ricordo bene, questo il nome attivo, poi adesso per la seguito sbagliando, che si chiamava Europa, nome attivo, no? Europa, non lo so, la verità, non lo so cosa dire, lo chiederò a lui quando lo sentirò. Vai Franco. Sì, sì, infatti sarà un modo per ricordare i vecchi tempi, non ricordo quanti anni fa, quanti anni lui stesse parlando, quanti anni fa, avanti Roberto. Una domanda a Franco, tu da quanti anni ci sei in frequenza, Franco? Prima degli anni 80 sono iniziato, 75, però avevo un portatile, a malapena arrivavo, forse salendo sul tetto qualcuno mi ascoltava, però non mi ricordo neanche chi, ho iniziato con un portatile, con un Inuit, era un canale solo, poi avevo comprato altri due quarti e mi sa che avessi l'11, il 23, forse il 3, non mi ricordo, o il 5, non mi ricordo, comunque tre canali alla fine avevo. Ma di tanti anni fermo, cioè poi non sei più rientrato. Sì, sì, ma anni 80 sì, 80 forse anche prima del 90, poi ho abbandonato, poi ogni tanto accendevo, ma non c'era quasi mai nessuno. E poi in questi ultimi anni ho rimesso un'antenna qua dove abito adesso, solo prima qua non avevo niente. Gli apparati erano tutti di sempre nell'armadio, stipati, apparati, alimentatori e cose varie, dai. Sì, perché adesso dobbiamo fare una domanda per Giulio, lo facciamo cavaliere della banda cittadina, lui forse è uno dei pochissimi che magari si contano alle punte delle dita che non ha mai mollato, così confermi Giulio. No, io non ho mai mollato assolutamente, né io né Gio Maria e altre persone che adesso magari non ci sono più, come Mario ad esempio, buonanima, Porto Pilato, poi chi altri? Quei tempi quando non c'era nessuno, c'era anche Tonino di Usini, c'era poi qualche altro, adesso non mi ricordo nemmeno, comunque noi non siamo mai mancati, soprattutto io e Gio Maria, né io Gio Maria né Mario, vabbè, poi naturalmente Mario purtroppo è deceduta, lo stesso Battisio lo sentivo sempre, anche quello, però purtroppo ormai non sono deceduti e mi dispiace molto. Sì, io usavo le nominative da ragazzo, usavo Snoopy, Franco Snoopy usavo. Snoopy o Dupi, non ho capito. Non lo ricordo, io l'altro giorno stavo facendo un po' di piazza pulita e cose che non mi servivano più e ho trovato una specie di libro era, dove c'erano tutti i nominativi di tutti i cibi che io ho sentito, che ho collegato anche, eccetera, eccetera. Poi alla fine, ma cosa me ne faccio? Ho preso e l'ho buttato alla bombetta, nella scatola della carta. Non mi serviva, anche perché ormai tutti i fogli erano ingialliti. Sto parlando di oltre 45 anni fa, che per esattezza io ci sono 49 anni e mezzo di frequenza. Dal 1972, se vuoi immaginare, febbraio 1972. Quindi quando sei entrato tu eri ancora pirata, non esistevano le concessioni? No, assolutamente, eravamo tutti pirata, andavamo in giro, andavamo anche a cercare potentissimi, eccetera, ma erano altri tempi, eravamo giovani, eravamo ragazzi, e mi ricordo io, Torre alla Verde, Aldo Perseo, che sarebbe il cognato di Torre alla Verde, tanti altri, andavamo giù in giro quando c'era qualcuno, allora in quel periodo c'erano molti importantissimi, ma comunque ormai non ci sono più e va bene così. Eravamo troppi, forse eravamo troppi, oggi siamo troppo pochi. Prima eravamo troppi veramente, come il numero. Vai Franco. Sì, prima a parte usciva tutti sparati, a manetta, disturbi, spurie, gente fuori frequenza, lineari, da una parte all'altra. E ti dovevi allontanare 4-5 canali minimo per non sentire disturbi, ma c'era gente dappertutto, canali ruote grandissime, con uomini, donne, c'era di tutto. E c'erano anche comici importantissimi, non sono mai mancati, avanti Robert. Ehi, e invece di quelli che hanno fatto il passo, il secondo passo, parlo degli animatori, Marco l'hai conosciuto tu in frequenza, Walter sì, non ho sentito male, ma Marco Scorpion, c'era già ai tempi tuoi, Giulio? Certo che sì, c'era Marco, c'era Walter, c'era anche prima di me, Walter addirittura prima di me. E Marco non lo so se era prima di me, ma forse anche lui era prima di me, adesso non me lo ricordo. Prima di me, comunque, parlando dei CB, c'era Gio Maria, c'era al momento, non c'è nessuno prima di me e prima di Gio Maria. Gio Maria addirittura prima di me, ma Gio Maria guarda ci sarà almeno 55 anni per questa, guarda non sto scherzando, ma più o meno Gio Maria a quegli anni, allora eravamo tutti pirati e ci siamo messi in ordine nel 74 quando appunto ci hanno dato quella possibilità della concessione eccetera, anche se la concessione era stata approvata nel 73, poi però diciamo in linea di massima tutti quanti hanno fatto la domanda nel 74. Avanti, sì, comunque per rispondere a Roberto, cattivo era Snoopy, S-N come Napoli. Snoopy, come personaggio del cartone animato, dai. Sì, sì, sì, ho capito, infatti l'altro, avevo capito bene allora. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprende Giulio. Due secondini di bianco, fai giù. Erano tempi belli, però allo stesso tempo c'era anche troppa gente maleducata, la verità. Era bello perché, cosa vuoi, eravamo tutte trovate in gioco, tutte ragazze, dunque. Però io magari non sopportavo le persone che venivano offese, come ad esempio... prendevano in giro a cosa, come si chiama, Paoletto, mamma mia, facevano uscire l'anima, poverino, davanti a Roberto. No, io non l'ho conosciuto, anche se devo dire, da bambino, proprio bambino era appassionato di queste cose, l'ho pregato come al sole a mio padre quando avevo 10-12 anni, di prendi, me lo compro, sono andati allora alla GBC, quando alzo il prezzo, vai, e lascia perdere. C'erano quelle walkie-talkie, quelle giocattolini, ci divertivamo quando andavamo in campagna, ma facevi 100 metri e andavi da nessuno a fare. Quello è sempre stato un mio desiderio, poi piano piano ho fatto qualche ricevitore, così, e poi ho iniziato il primo baracchino. C'avevo sempre questo baracchino, era un portatile, una walkie talkie però da 5 watt, quelle che danno 5 watt, vabbè, dichiarati 5 watt e 1 watt a potenza bassa, c'aveva prima tre canali, c'avevo nuovo, quello per dire non l'ho mai utilizzato, e poi ne avevo comprato uno al mercatino dell'usato di Alghero, una di quell'Intec, 40 canali, sempre 1 watt e 4 watt massimi, e con l'antenna in gomma, la prima volta che mi ha risposto, novembre 2004, Luca Del Monte, mi ha detto avanti, cacchio, sono rimasto anche male, perché ho detto cavolo, allora qualcuno mi ascolta, perché non sentivo mai nessuno, giravo i canali, quella volta non mi ricordo se ero su 10 o su che canale, e mi ha risposto Luca, è stato il primo che mi ha anche battezzato, come si dice, perché ha detto scusa, c'era anche Roberto meccanico allora, e dice tu sei Roberto di Casa Nazionale, dice per quadrato, beh allora tu sei Roberto Quadrato, dal giorno Roberto Quadrato. Sì, quello conosco moltissimo Roberto meccanico, anche perché eravamo vicini come ubicazione di lavoro eccetera, no? Lui era nella strada praticamente che fiancheggiavo io, per cui anche se ero in alto, però l'ho conosciuto moltissimo. Ecco, ad esempio Roberto Meccanico è uno dei vecchi della CB, come è anche uno dei vecchi Bruno Volagano, che ogni tanto entra, però lui c'era addirittura prima di me, Bruno Volagano era il cognato di Tore Alla Verde, anche lui, e poi c'era Aldo, l'altro cognato di Tore, che sono fratelli con Bruno, no? E Bruno Volagano c'era prima di me, solo che lui ha abbandonato per almeno 30 anni e ha ripreso adesso ultimamente, non è che ha ripreso poi per tanto tempo, però ha ripreso, diciamo, forse un anno, forse nemmeno un anno. Ricordate Bruno Lagano, no? Qualche volta si fa sentire anche qua, davanti qua. Sì, lo ricordo, ma ultimamente non lo... è un po' che non lo sento. Mi ricordo Roberto Meccanico, sì, se non sbaglio, a parte usciva fortissimo anche dalla macchina, mentre avesse l'officina forse a Pradaniedra, se non ricordo male. Avanti Roberto, tu che anno ci sei invece, da che anno ci sei? Diciamo, per giocare prima, magari ho provato prima, però che mi hanno conosciuto da 2004, poi entravo proprio tutti i giorni, quando c'erano 5 minuti per diverso tempo, poi piano piano un pochettino di meno, diciamo, però da 2004 sino adesso, diciamo quasi ininterrottamente, anche per dire stavo mesi senza entrare. E il vecchio era, scusate, se continuo il discorso, anche Passero, Gavino Passero era un vecchio CB, confermi Giulio? Sì, anche Gavino Passero era un vecchissimo, io è stato qualche mese dopo di me, perché io l'avevo conosciuto lì in Piazza Italia, c'era una volta una festa in Piazza Italia, c'erano un concerto eccetera eccetera, e c'era lui e la moglie Giovanna, che poi in frequenza si chiamava Bettina, e il caso ha voluto che eravamo uno uno di fianco all'altro, io, mia moglie, lui e la moglie, e ho sentito questa persona parlare con la moglie, e loro sono riconosciuto dalla voce. Allora gli ho chiesto, ma dimmi una cosa, ma tu cosa sei? Sei Gavino? Gavino, sì, sono Gavino, e tu Cristian, io sono Giulio. Allora non ci siamo più, diciamo, lasciati come amicizia, fin quando lui purtroppo è scomparso. Veniva sempre da me a salutarmi, eccetera. Tante volte rientrava da lavoro e poi passava prima in falegnameria, poi ci facevamo quattro chiacchiere e poi via, così era. Avanti e fra. Capa, sì. Poi mi ricordo Cavallino Rosso, non so se era da Villanova. Poi sentivo la Corsica dalla campagna dove abitavo, Canarino, non so se ti ricordi, Giulio. A voglia, dalla Corsica sentivo Antonio Felice, che aveva il potere sulle monti, prima quando era a Calvi e poi è passato a Coenza, mi sembra, o viceversa, se non ricordo bene. Lui era un ristoratore, aveva un albergo, più un ristorante, eccetera. Infatti mi aveva anche invitato ad andare lì, e dice ti ospito io, no, allora, non ci sono mai andato, però ci parlavo praticamente tutti i giorni, ci parlavo con Antonio Felicen, si chiama di cognome, e cioè di frequenza Hotel Sole Monti, e così fa uno praticamente, della Hotel Sole Monti, che era il nome del ristorante. Avanti, Roberto. Sì, lo conosco pure, ci sono andato anche in quel locale che stai dicendo tu. E poi coso, Gufo Triste, anche lui era uno di quelli lì, che non sbaglio. Sì, anche lui, lo stesso. E ne sono passati di persone, guarda, senza esagerare. Io penso che allora, in quel periodo, io parlo degli anni 70-80, a Sassari, non c'erano meno di 100 persone in frequenza. Senza considerare poi tutti quelli che c'erano nei paesi limitrofi anche, no? Come da Ploaghe, da Usini, da Ossi, da Sorso, da Porto Torres, se poi non ne parliamo. A Porto Torres c'era una marea di gente, tutta gente tra questi, naturalmente il nostro amico Claudio, che oggi anche lui è un vecchissimo della frequenza, per cui lo sappiamo benissimo. Siamo gli unici che abbiamo resistito a lungo, ecco, diciamo, ci possiamo considerare i vecchi della frequenza, vai. Sì. Poi ne sentivo uno che modulava dalla zona di Stintino, può essere Mario Montelva, può essere? Mario? Mario Montelva. Non lo so, non ricordo. Questo nome relativo non lo ricordo, ma ripeto, guarda, parlando di nuovo di Porto Torres era pieno di, senza poi pensare che c'erano tutti i barcaioli che avevano tutti quanti il baracchino in macchina, e parlavamo con loro molto, molto, molto, molto spesso, veramente, tutti quanti sul canale 1 e dunque c'era una marea di persone, di gente, e loro ce l'avevano anche per comunicare con la famiglia, perché lo sai, tu il pescatore va in mare e magari rimane anche 2 settimane facendo la pesca, e dopo quando rientrano, allora si collegavano con la famiglia tramite baracchino, allora non c'era il telefonino come oggi, eccetera. Sì, sì, pescatori, anche io qualche pescatore qualche anno fa lo sentivamo, quello di Alghero che usciva fuori, eccetera, eccetera. Ma anche coso, quello di Usi, lo Silvestro, anche lui era un vecchio civile, o sbaglio? A voglia, anche lui è un vecchio civile, ma ce n'erano tanti. Parlavamo con la Zinara, parlavamo con i secondini della Zinara, ce n'erano 4-5 che parlavano tutte le notti, ci collegavamo con i secondini della Zinara, parlavamo con gli infermieri dell'ospedale dell'Italia, parlavamo e ce n'era. Tra questi c'era anche il padre di Antonio, Reserva, che lui lavorava lì allora, e parlavamo anche con lui, perché lui lavorava lì in ospedale. Poi c'è la certo, aspetta, come si chiama, Geo, se ricordo bene, anche lui era lì, infermiere dell'ospedale, parlavamo con lui, insomma ce n'erano centinaia e centinaia di persone. Avanti, va. Anche alla Ghiero mi ricordo cosa usava, il canale 15 se non sbaglio, c'erano belle ruote anche ad Alghero, e poi c'era Domenico Cristal che usava da Monte, ma come si chiama, Monte, quel monte che c'è prima di Alghero, adesso non mi viene, aiutami Robè. Neanche a me, no? Monte Duglio, no, Monte Duglio non c'è mai. Sì, Monte Duglio, c'era proprio la stazione meteorologica lì su, lui modulava da lì. Ok, aspetta, forse ho sentito qualcuno sotto. Avanti che vuole entrare? C'è qualcuno lontano, non si capisce niente. No, io ti ripeto, io li sentivo per sentito dire qualcuno che veniva in officina, magari che c'era il baracchino, un po' di camionisti capitavano che c'avevano. C'era questo qua, anziano, molto più grande di me, adesso non so se sia Buruvivu, e lui si chiamava Falco Nero, c'aveva il camion, c'aveva un tigrotto e lui c'aveva il baracchino. Sì. Falco Nero era risorso anche. E dunque, vabbè, comunque, non so se stai parlando di quel Falco Nero lì, che purtroppo è deceduto e il baracchino che avevo una volta Falco Nero, adesso so che c'era uno di Porto Torres, un baracchino abbastanza interessante, perché faceva da 25 fino a 30-32 MHz, una cosa del genere. Non faccio il nome, se non so se lo sapete, però c'era lui e funziona benissimo. Ok, avanti. No, negativo, non mi ricordo. E invece Polverone da dove parlava? Porto Torres anche lui? Polverone, lo stesso. Polverone, non lo so se era di Porto Torres, Polverone. Questo non lo so, però parlava moltissimo, allora, aveva voglia. Ma non solo questi, parlavano anche i tassisti, parlavano. E parlavano tutti quelli che facevano, che lavoravano col camion o che lavoravano in proprio, e niente, tutti ce l'avevano al baracchino e tutti quanti entravano e parlavano. Poi naturalmente quello che più si faceva notare era un certo Antonio, che si chiamava, un certo suo astone, per carità, quello era meglio, lo sentiva, perché quello ne aveva per tutti, certe parolacce, per carità, mamma mia, cose, infatti tante persone sono scappate anche per quel motivo, perché c'era un linguaggio assolutamente sporco allora, soprattutto per le donne. Avanti, vabbè. Quello l'ho sentito anche io, un sacco di gente. Poi anche Salvatore Maestrale dice che era un vecchio CB, Coso, Marco 131, ne ho sentito parlare di loro. Sì, Marco 131, quell'altro amico, quello della Gradia, che non mi ricordo come si chiama, lo stesso, certo. Coso, Salvatore Maestrale, a voglia, quello era da tantissimi anni, lo stesso. Tu pensa che io mi ricordo, Salvatore Maestrale aveva regalato l'antenna a una persona, che io non dico il nome chi è, e io col motocarro, siccome non eravamo riusciti a montarla bene, del tutto l'ho piantata sul motocarro che avevo io al motocarro da lavoro, e gliel'ho portata fino a domicilio. Di questa antenna di Salvatore. Avanti, va. E quindi tipo la matova che ho io e ho io alle punte, che non riesco a smontarla, e mi toccherà portarla intera da qualche parte, o in campagna per provarla. Avanti, vabbè. Sì, molte volte si fa prima tagliare i due pezzettini più vicini possibile, all'inizio li tagli e lo rifai di nuovo, glielo rimetti di nuovo fascettato, perché molte volte si incollano. Io spero di non scendere mai con l'antenna. A me Salvatore Maestrale mi ha regalato la sua Mantova Turbo, che è nuova, ce l'aveva pochi mesi e me l'ha data a me. L'abbiamo smontata perfettamente, tranquilla, anche il palo mi ha dato, c'era 8 metri di palo lui, poi mi aveva regalato la 5 bande, che ce l'ha ancora, quella troppo grande, un marrasone, l'ho provata, però l'ho tirata via subito. E poi mi aveva dato una direttiva, un dipolo, due elementi mi sembra che sia, quella non l'ho mai montata. E poi mi ha detto, siamo molto amici, sentiamo quasi tutte le settimane con Salvatore, infatti mi ha detto mettiamoci d'accordo con CB Talk che ci facciamo, perché lui gli manca tanto, me lo dice sempre, tu non hai quanto mi manca il baracchino con tutti gli amici eccetera, e lui è proprio appassionato, dice vorrei fare, ma qua non vedi nessuno, ci sono solo andiamo attori, lui abita poi in montagna in Austria, dice stanno già acceso il riscaldamento, dice la mattina quando va a lavorare metto ci sono 5-6 gradi, è un freddo, poi d'inverno non è che a dirlo cosa c'è, arriva a meno 20 sotto zero, però Salvatore grande persona. E poi c'era, non so se era vecchio CB, te ricordi a Mario Mansell e Giulio? Certo, me lo ricordo, a voglia. Veniva sempre a trovarmi, da me. Veniva, no. Salvatore lo stesso, Salvatore abitava poi, prima che andasse via dalla Sardegna, abitava di fianco, anzi di fianco, addirittura nell'ex casa dove abitava prima mia cognata. Però mia cognata in quel periodo era in affitto, poi si aveva costruito la casa di fianco a quella e abitava lì, Salvatore, dove abitava prima mia cognata. Sì, ti sto dicendo, l'antenna, adesso non mi ricordo se era 94 o 95, e il fatto sta che non si è riuscita, sono riusciti anche per non scherzare, no? Perché sai, l'alluminio mette ossido. E allora mi hanno chiamato, ho fatto, me lo fai un favore, se è un favore che ti posso fare, problemi no, non ce ne sono, io sono sempre stato disponibile con le persone e gente, magari lasciavo il lavoro per fargli il lavoro e il trasporto con motocarro, per dire, no? Sempre a titolo così di favore. E avevo piazzato l'antenna sulla soprasponda, legata sopra e sotto, e dunque ho portato l'antenna alla stessa vicina in campagna, che puoi immaginare, piazzata, cioè da stessa, da cavalcavia, dai, da dove abitava, da dove avevo l'officina allora Salvatore. Non ne avete girato cosa. Poi mi hanno detto che lo stesso, scusa Fra, la trasmissione lunga, anche Capri, dice uno dei primissimi. Uno dei primissimi, anche lui del 72, anche lui del 72. Sono che pure alla fine hanno abbandonato e il discorso è sempre quello. Cioè, proprio assidui sempre, da quando hanno iniziato, sì, a questo momento, magari sono rientrati, questo sì, però ogni tanto si fanno sentire ugualmente i vecchi appassionati, come Gianni ad esempio, Gianni Capri 2, anche lui è del 72, non è da ieri, solo che anche lui ha abbandonato, tutto sommato si fa sentire una volta ogni volta di pappa, per cui quando lo sento mi fa sempre un grande piacere, infatti ci sentivamo sempre al telefono, soprattutto nelle ricorrenze come a Natale, come a Pasqua, eccetera. Poi evidentemente loro hanno cambiato il numero di telefono e il numero che ho io non risulta più quello, per cui non l'ho più potuto sentire, se no lo ci chiamavamo anche al telefono prima. Avanti, Fra. Invece Alessio è sempre stato assiduo, perché mi sembra ogni volta che io ho acceso ho sempre trovato in frequenza Giulio. Beh, il figlio entra, ma lui entra dalla mente, forse lui è impegnato col lavoro, sai, perché il lavoro è sicuramente più importante del baracchino, magari non avrà molta voglia, non lo so, ripeto, quando lo sento mi fa molto piacere di ascoltarlo. E mi dispiace che non ho più il numero di telefono, anche se avevo chiesto al figlio, e il figlio mi ha detto fatelo dare a qualcuno che ce l'ha, fatelo dare e poi no. A qualcuno l'ho chiesto, dice sì, te lo do, te lo mando, ma nessuno mai me l'ha mandato. Pazienza. Va bene, riprendi. Allora io ho il numero di Capri, però io prima che dare il numero di una persona chiedo sempre il permesso, se capita di sentirlo glielo dico se te lo posso dare, perché è capitato da poco una persona e mi ha detto mi dai il numero, gliel'ho chiesto a questa persona posso dare, mi ha detto no non è dare, per cui io non mi prendo responsabilità, sicuramente ti dirà di sì, non dico niente giù, io sto parlando in generale, però prima di dare il numero di una persona ci deve essere il benestare dell'altra persona. Ok, di nuovo a te Giulio. Beh certo che sì, ma è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, quello è giusto, no Paolo, ma aveva detto il figlio, mi aveva detto mi fate cosa? Mi ha cambiato un attimino, non so se fa. Infatti a qualcuno l'avevo chiesto, ma tanto perché io figurati, non vado in chiesa a pregare, figurati se quel bianco, la speranza che entri qualcuno, ma mi sa che sì, a volte ti senti un po' in difficoltà, anche a me a volte mi chiedono un numero di tizio di Caio, però come dice Roberto io prima chiedo al diciamo l'interessato se vuole, se mi autorizza lo do, se no anch'io difficilmente, anzi mi sa che non l'ho mai dato senza permesso del diciamo del padrone del telefono, hai capito giù. E Roberto mi sa che sta facendo un attimino di bianco. Sì, beh, certo, ma è così, è una questione anche di educazione, ci mancherebbe, no? È giusto che sia così. Io faccio la stessa cosa, se mi chiedono il numero di telefono non lo do così al primo che me lo chiedono, ci mancherebbe altro. Sì, ma chiedo all'interessato, ma l'ho chiesto il tuo numero, glielo posso dare, e poi lui mi dirà sì o no. Se mi dice sì, ben volentieri glielo do, no, problemi non ne ho. Io una cortesia la posso fare a chiunque, no, non c'è problema, figurati. Sono sempre stato disponibile, però sempre con la massima delicatezza e con la massima educazione, ci mancherebbe altro. Non mi permetterei mai di dare il numero di telefono di una persona se non sono autorizzato, ci mancherebbe, nella maniera più assoluta. Vabbè, Roberto, cosa hai detto? Si è allontanato un attimo? Sì, ha chiesto un attimo di bianco. Vediamo un po' se è rientrato, Roberto? No, negativo, e infatti avevo qualche bassa, qualche altro. Eh sì, bisogna sempre camminare, diciamo, in punta di piedi. Non so, il mio numero ce l'avete in pochi, forse si possono contare sulle dita di una mano. Non conosco tanta gente. Comunque, l'importante è sentirci unizzato, dai, avanti giù. Beh, certo che sì, ci mancherebbe altro. Così, in effetti è così, bisogna comportarsi, ci mancherebbe. Non è corretto, non sarebbe corretto andare a dare il numero di telefono così. Poi se uno lo dice di sua spontanea volontà e frequenza, sono problemi suoi. Però anche se lui magari può averlo trasmesso, io parlo di qualcuno che magari l'ha detto in frequenza sul numero eccetera, no? Però se qualcuno non è riuscito ad averlo, anche se questa persona l'ha detto in frequenza, io prima di darlo, o se me lo dovessero chiedere, che da lui è interessato, non posso permettermi di dare il numero 3, ci mancherebbe altro. Per cui, permesso che per me non ho problemi, io l'ho sempre dato in frequenza, il numero mio, per cui non me ne frega niente. Se qualcuno vuole telefonare, che c'è dei problemi. Certo, quando telefono sono loro che pagano. Quando mi telefono mi appare il suo numero, perciò no, problema non ne ho. Ma ripeto, no, il mio non è segreto, ecco, lo sanno tutti, non c'è problema. Avanti qua. Sì, poi oggi c'è la possibilità, se qualcuno ti rompe le scatole lo blocchi e ha finito Giulio. Beh, certo che sì, è ovvio, no, questo è il contatto, ci mancherebbe. Ho bloccato certi numeri, tipo quelli del call center, per dire che ci rompono le scatole, vedi, più di uno ne ho bloccato, sembra fatta apposta, sempre proprio all'ora del pranzo o la notte, all'ora di cena, ti telefonavano per fare la pubblicità, e allora li ho bloccati e quindi no, non chiamano più di sicuro, no, non c'è problema. Vuol dire che un giorno, quando sarà il momento, potrei anche sbloccarli di nuovo, ma non credo che quando vedono che non rispondo mai, evidentemente dicono è bloccato il numero, non lo riceve, tutto li fa. Io per esempio a casa ho ancora il fisso, no? Perché lo tengo per i miei genitori, però ormai gli ho abbinato al loro numero una suoneria particolare, quindi se sento altre suonerie neanche mi alzo, rispondo solo se sento la suoneria dei miei genitori, se no passa. È lo stesso, io a casa c'è chi è, dunque mi appare il numero, se è un numero che mi va rispondo, se è un numero che non mi va lo stacco subito, lo chiudo subito, per cui non c'è problema, figurati, qualsiasi numero che mi telefono mi appare, perciò non è che possono fare tanti scherzi, perché se mi appare il numero, se qualcuno vuole fare il cretino, allora sono affari suoi, visto è considerato che il numero mi risulta e mi appare, perciò non è problema, so come comportarmi in quel caso lì. Avanti qua. Io per evitare... da rialzare minuti al meteo proprio perché devi alzarti per vedere il numero, a meno che non ce l'hai a portata di mano il portatile, ma in genere io lo lascio sempre lì in zona ricarica. E quindi se non sento la suoneria dei miei, poi ripeto, neanche mi alzo. E così giù. Riprendi. No, il mio, anche se non rispondo, rimane sempre appare il numero che ha chiamato, per cui non c'è problema. Appare. Anche se non è in ricarica, appare sempre, no, non è un problema. Rimane. Rimane bello segnato e so chi ha chiamato e chi non ha chiamato. Ma diciamo che più o meno le persone che ci interessano, più o meno il numero lo conosciamo e allora quando vediamo che è quello il numero rispondiamo, diversamente non rispondiamo più, anzi se ce l'ha portata di mano chiudo pure la telefonata subito, no, non mi interessa più di tanto. Sono rientrato io. Sì, capo. Poi ti accorgi subito quando sono call center, senti subito il trasferimento di chiamata che c'è stato. Avanti, dov'è? Sì, no, scusate, è una telefonata. Ok, cosa è successo nel frattempo, di cosa state parlando? No, di queste dei telefoni. Io ho il telefono fisso ancora a casa, lo tengo per i miei genitori, gli ho ordinato una suoneria particolare, quindi mi alzo al sonno se sento quella suoneria, tanto so che le altre telefonate sono tutti call center. Già lo so, purtroppo rompono le scatole, tu magari ce l'hai a casa vicino, ma quando sei in officina che sei tutt'altra parte, ti metti a correre a rivedere e poi Telecom Italia, ma Rusan, tu dove ho Vodafone. Oppure adesso ci sono le telefonate registrate, gentile utente, se lei vuole, cioè non c'è neanche più il consenso, a Caggiuma non mi rimagno, nel cellulare ogni volta che mi chiamano ci metto il blocco, però cazzo, ci trovano lo stesso, io ho un numero internazionale, non è interessato a un italiano, una persona extracomunitaria straniera, eppure cacchio mi hanno rotto la scatola anche lì, addirittura. Io me lo sono cambiato il numero proprio per non aver rompito, eppure cavolo me l'hanno fatto, sono riuscito a trovarmi. Grazie, mio campo qualche scheda a Santo Domingo. Oh, yeah. Vai giù. Sono rientrato, Ispirata mia, beh. Pirata sarai tu, ha capito? Uomo, ma ne è pirata. Abusivo. No, come dice Beto, c'è abusivo con la bu. E anche io c'ho il telefono fisso qua e mi rompono le scatole sia lì che nel cellulare, anzi adesso nel cellulare c'ho l'affare per bloccarle, riblocco sempre. Però sai che sono riuscito a metterlo a posto il cellulare, l'ho comprato nuovo, gatta, e mi faceva il difetto che mi cadeva la telefonata, come me l'avvicinavo poco a poco all'orecchio, trac, chissà cosa mi era successo, duccava e non stava funzionando il, come si chiama, ma il sensore di prossimità, sono dovuto andare su internet per mettermelo a posto. E come hai fatto? E su internet c'era,